tears to try to dream on about a better world. Complications are the celebrations on your days on your own. But then something went wrong. Of the world, don't let your partners on their own. You will never have regrets if love is love and then someone is making his own choice, someone is rolling on. Rushing cheers you try to dream on about a better world. Complications are the celebrations on your days on your own. But then something Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Prosegue la serata su Blu Radio Veneto, all'interno del nostro contenitore Blu Radio Sera fino alle 22:30, ma facciamo anche 35, visto che siamo anche un po' in ritardo. Insieme a me Sergio Bortolami e poi dall'altra parte del vetro, come al solito, Maurizio Calzavara. Siamo in compagnia, Maurizio, dei Tobia Lamar and Sellers, come si usava negli anni che furono. Esattamente. Giustamente. E Sergio giustamente ha detto Tobia, in arte tu ti chiami Stefano, però Tobia in ogni caso, e hai detto che giro, ragazzi, all'inizio, che giro, un po' progressive, un po' Dylan, un po' tutto un po' rock anni 60. Ci sei? Sì, ci sono. Che grande pezzo che avete scritto. Grazie. Veramente dà proprio un bel impatto. Un po' Dylan, un po' power folk, cioè un folk che è un po' pieno di elettricità, non è così? Sì, sì, no, vabbè, ma poi d'altronde il primo disco di Dylan che ho comprato nella mia vita è stato quello della svolta elettrica, il 261, quindi si capisce subito per me è quello com'è il discorso, anche se il mio armonicista mi ammazza perché per lui è blonde on blonde, però non avrebbe mica tutti i torti, però lo so, però sai quando ti affezioni una cosa, no? Tu hai inciso questo disco con una tua etichetta personale, allo Bello Records. Sì, esatto. Lo Bello Records si chiama così perché è il nome della mia masseria, dove abito e dove suono e dove coltivo la terra in maniera biologica, quindi tutto in maniera molto country. Bene, bene. Abbiamo visto sulle fotografie, è molto molto carino, molto divertente, ben fatto, e c'è molto feeling, c'è molto suono, un bel suono inglese secondo noi in alcuni momenti. Cosa dici, Toby? Sì, beh, vabbè. Sicuramente sì, ma anche perché la musica, cioè io alcune cose della musica mi porterò per sempre, vengono dall'Inghilterra, cioè nel senso io ho iniziato a cantare perché ho sentito un pezzo di Sex Pistols, ma il secondo disco che ho comprato è stato quello Dead on the Door, The Cure, avevo 8 anni, e poi la chitarra l'ho presa perché mi ero innamorato dei Clash, quindi anche se mi butto su delle cose che sono magari vicino alla sonorità americane, comunque, cioè, l'Inghilterra poi sarà sempre più a portata di mano, quindi cioè, è sempre dietro l'angolo. Il DNA è sempre là, praticamente. Sì. Ma tu hai solo un momento di stasi, visto che hai un altro gruppo, hai deciso. Visto che il gruppo stava preparando un disco, c'era un momento di riposo, con il gruppo abbiamo detto facciamo un altro progetto, è così, Tobia? Ma guarda, più o meno in realtà non è andata proprio così. Non è andata, perché, ho letto male sulle note vostre. Ho registrato insieme, però ho deciso di farli uscire, diciamo, con un po' di distanza uno dall'altro il progetto, perché se no non, in realtà prima volevo farli uscire tutti insieme e fare due tour contemporaneamente, ma non ci riuscivamo. Sì, però volevo fare un disco acustico da tanto tempo, e poi dopo un viaggio sul Mississippi che ho fatto in macchina, ho deciso di prendermi finalmente una chitarra acustica, che avevo, però sai, quelle chitarre acustiche le lasci sul divano pure fuori sul patio e si prendono la pioggia e si curva il manico. Ho preso questa chitarra acustica, ho scritto delle canzoni sulla chitarra acustica ed è nato questo disco, e quindi poi ho formato la band, ho deciso di registrarlo e di fare questo nuovo progetto, e mi sembrava... Sellers, cioè dal dottor Stranamore, Peter Sellers, è così? Sì, Peter Sellers, assolutamente. Peter Sellers per me è uno dei più grandi attori mai esistiti sulla faccia della terra, è stato assolutamente geniale. E poi c'è questa cosa che io, il bassista, praticamente prima di formare questa band, ci conoscevamo da un sacco di anni, e ogni tanto abbiamo suonicchiato insieme, e poi abbiamo parlato sempre un sacco di cinema, e abbiamo parlato sempre, costantemente, ogni volta che ci vedevamo, sempre di tutti i film di Peter Sellers, e alla fine dovevamo scegliere il nome, a me piaceva questa cosa, Tobia Lamare and qualcosa, e poi abbiamo detto vabbè, chiamiamoci Tobia Lamare and Sellers. Benissimo. Io ricordo un film, l'ultimo film che ha fatto, Oltre il Giardino. Oltre il Giardino. Bellissimo. Sì. Meraviglioso, meraviglioso. Ma anche la musica di Tobia Lamare e The Cell è una musica molto interessante. Poi tu hai citato i Cure, e il secondo pezzo che noi abbiamo citato, che abbiamo adesso proporremo, faremo sentire, sì, ricorda, dico, in qualche momento i Cure. Sto già sbavando. Dimmi. No, sto già sbavando. Ah, sei, perfetto. Quello che ho amato molto io e Cure, secondo me, in senso positivo, Tobia, però. Sì, grazie. Adesso lo sentiamo assieme e poi ne parliamo, ok? Ok. Blu Radio Sera. Call. And you such a long time I've been unhappy, boy. Money, Main Street, corner, guitar showman, tweeting, sleeping, talking all the time of you. Never call. And you never call. And you never call. And you never call. Blu Radio. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. In Blu Radio Sera siamo con i Tobias Lamar and the Sellers. Suona troppo inglese sto disco, mamma mia. Bello, bello. Bello, bello. Bel pezzo. Mi sono subito innamorato di questo pezzo, Tobias. C'è poco da fare. Grazie. Immediatamente. Ma tu hai 17 anni di esperienza, non è mica sei mica un novellino, eh? No, no. Suoni no, da un sacco. E poi fai anche il DJ praticamente. Sì, sì. Beh, d'estate soprattutto, sì. Diciamo che sono la parte, la controparte del reggae. Nel senso, o c'è il reggae o ci sono io d'estate, più o meno, come genere, no? Ah. Diciamo, organizziamo questi festoni sulla spiaggia a 3-4 mila persone. Però sono un po', diciamo, dei toga party più o meno, un po' Grande Lebowski, un po' un po' Animal House, fino alle 8 di mattina sono distruttivi, poi alla fine dell'estate non ce la fai più. Ho capito. Ricordiamo che tu sei dal Salento, praticamente. Sì, sì, di Lecce, sì, sì. È di Lecce, quindi il Salento che ha tanti musicisti molto interessanti, molto bravi. Sì, sì, citiamo sì, Negramaro, tanto per citare qualcuno. Sì, ma poi Negramaro che poi, diciamo, sono quelli che sono venuti fuori, no, in grandissimo stile. Ma poi c'è una scena sotterranea a Lecce, specialmente in questi ultimi anni, è veramente interessante. Poi tra l'altro c'è una scena elettronica che è un po' nascosta, nel senso che anche a Lecce stesso magari non sono conosciutissimi, però ad esempio c'è un DJ che è con Grock, che è uno dei più grandi DJ di dance floor mondiale attuali, gira un sacco. Poi c'è Populos che esce con More Music, poi c'è un sacco di altre cose. Molto spesso però poi queste cose escono più fuori che a Lecce, paradossalmente. Ho capito. Tobia, possiamo ricordare i membri della band praticamente? Sì, allora la band, diciamo, così come la sentite sul disco, c'è Osvaldo Piliego che ha la batteria, che è anche il batterista degli Psycho Sun e l'altra mia band, Marco Santoroverri al basso, poi c'è Alfonso Cannoletta alla chitarra, Antonio Candido Junior all'armonica, e poi c'è al piano, agli organi, Gianluca De Rubestis, che ogni tanto quando riesce viene anche insieme con noi live. E poi, questo dico sempre, i Sellers sono una famiglia molto larga, nel senso che poi nei live c'è molto spesso Maurizio Pierucci, che con nome d'arte o Petroleum, che ha questo progetto nuovo molto interessante, e un po' la Screaming Trees. Poi c'è Mimo Pesare, un altro bassista, poi ci stanno un sacco di altre persone, suonano Dobro, Lapsteel, eccetera. Quindi un po' di tutto praticamente. Ma sì, l'etichetta sì, che tu hai creato, Lalo Bello, è quello, il primo disco è questo qua, poi il secondo disco altre band simili? Sì, vabbè, il secondo disco sicuramente sarà quello degli Psycho Sun. Esattamente, la tua band. E entro la fine di quest'anno faremo un'altra uscita con un'altra band che si chiama Spread Your Legs, che sono una band di indie rock, sono sempre di qua. E poi ci stanno altri progetti in cantiere per quest'anno. Io contavo di fare 5 uscite, non ne volevo fare troppe per riuscire a seguirle tutte, riuscire a seguirle bene. E poi io e Sergio stiamo vedendo la copertina, la confezione è molto bella, come se ben fatta decisamente. Grazie. Hai fatto un bel lavoro, un grande lavoro. Il nostro grafico Eric Schilli, che è sempre un ragazzo che qua è molto bravo. Sì, poi volevamo avere questo un po', questo sapore un po' retro, un po' grigliata del Kentucky, non so se... Sì, ricorda, sì, giustamente tu hai detto il Sales è una comune musicale, cioè ci sono tante cose che si mettono assieme, che si fanno, si costruiscono, è un bello spirito secondo me. Sì, sì, no, ma poi tra l'altro è, secondo me è, adesso è, per come funziona la musica, dove è, diciamo tutti quanti, nel momento in cui non si vendono più i dischi, è inutile anche prenderci un po' in giro, anche, cioè, non è vero che anche digitalmente si può vendere come prima si vendevano i dischi, perché non c'è un'abitudine a frequentare un luogo, ma anche i siti, cioè, sono ridotte, e ormai così e va bene, e quindi una volta abbandonati tutti i sogni di gloria, no? da adolescenti agli anni 90. E la cosa interessante e bella da fare è condividere qualcosa in maniera abbastanza naturale e genuina, no? E questo ti permette di avere un sacco di collaborazioni nel momento in cui fa le cose in questa maniera, e queste collaborazioni poi fondamentalmente poi continuano e servono e sono linfa, è linfa vitale per perché riesci poi ad avere un sacco di esperienze nuove, sia con persone della tua stessa città, ma molto spesso noi abbiamo avuto la fortuna di collaborare e di suonare con persone anche da fuori. Uno di questi è un countryman australiano, si chiama Pete Ross. Poi c'è Dan Costello da Brooklyn, con cui abbiamo fatto un piccolo tour in Italia, e quindi in realtà paradossalmente nel momento in cui c'è il mercato, quando ha avuto questo stagnamento, poi si riesce a suonare in maniera diversa, a suonare forse di più anche. Certo, cioè, quindi una musica un continuo divenire praticamente. Com'è? È un continuo divenire musicale, tante idee che si sviluppano, che si formano. Sì, perché nel momento in cui poi crolla la logica del mercato, no? Vicino, non voglio chiamarla arte, no? Cioè, non voglio farmi queste pippe. Però quando nel momento della musica crolla la logica del mercato, alla fine non te freghi più niente, fai quello che vuoi, insomma. Certo. Sentiamo un altro pezzo, allora cosa dici, Sergio? Sì, sì, lo ascoltiamo. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Probably thought, what do we hear? from feelings at the night. Then something went wrong. Radio Sera. Blu Radio Sera. Sembra neanche di ascoltare, chiacchierare con un nostro amico mediterraneo. Esatto. Mamma mia, senti che suono. Vabbè, Tobia Lamar and Sellers qui con noi all'interno di Blu Radio Sera. A te, Maurizio. Maurizio. Sì, stiamo sentendo questo pezzo meraviglioso. Siamo stati catturati, io e Sergio, dal pianoforte, da questo cambiamento nel pezzo, Tobia. Il pianoforte è bellissimo. È veramente una cosa stupenda, è uscita veramente bene. Tra l'altro, noi quest'album l'abbiamo registrato al Sud-Est Studio, una parte che è a Campi Salentino, uno studio dove appunto registro Populos, hanno registrato Studio Davoli, altre band, Tuma, eccetera. E poi molte cose le abbiamo fatte qui in campagna da me, quindi abbiamo messo questo pianoforte a coda un pomeriggio, abbiamo microfonato e Gianluca ha fatto queste sessioni, diciamo, in maniera abbastanza spontanea. E quando gli è uscito questo giro di piano, questo arrangiamento, questo riff, io sono rimasto a bocca aperta, perché ho detto: guarda, non avrei potuto chiedere di meglio, assolutamente, non so da dove gli è uscito, è veramente... È vero, bellissimo, sì. Avvolgente. Non abbiamo ancora citato il titolo del pezzo, però, Tobia. Sì, è Girls with Pills. Ecco, perfetto. Sì, ci ha proprio entusiasmato, io e Sergio, questo pezzo. Grazie. Decisamente. Perché e cambia immediatamente. Sì. Gli dai una colorazione diversa da momento a momento. Sì, anche perché quando l'ho scritto, tutto l'album gira intorno a questa storia, no? Intorno a una festa, una sorta di concept album, dove tutti i personaggi delle canzoni si incontrano, si incrociano, no? E quindi è tutto un continuo. E quando ho scritto questo pezzo immaginavo questa seconda parte che doveva essere completamente diversa e più ritmata, perché cambiava, diciamo, in un certo senso la storia e l'atmosfera, no, della storia, quindi è venuto così. Sì, però è strano pure a me, non mi era mai successo di fare, cioè non spesso di fare dei pezzi con questi cambiamenti. È uscito bene, sì. Decisamente bene. Ma è un progetto che nasce, si sviluppa e muore così o continuerà, Tobi? No, io cioè sto già iniziando a registrare, diciamo, a casa i pezzi per il secondo album. Ah. Uscirà il secondo, facendo un pronostico così un po' alla Carlona, se il settembre 2010, diciamo per l'autunno del 2011, diciamo tra un anno, probabilmente tra ottobre e novembre dell'anno prossimo, considerando la registrazione e tutte le cose. Ma sei un uomo pieno di progetti, Tobia. Com'è? Sei un uomo pieno di progetti. No. Beh, tutti molto interessanti, decisamente, a quanto sembra. Cioè, questo è sicuramente un album molto interessante. Decisamente. Grazie. Molto interessante. Ben fatto, ben costruito, con tante variazioni, con tanti specchi, con tante immagini colorate musicalmente parlando. Però è molto valido, secondo me. Lei ha tanti tasselli in un universo sonoro molto interessante, ripeto. Questo è un grandissimo complimento, me ne stai facendo un sacco. Perché mi è piaciuto molto sto disco, c'è niente da fare. L'ho sentito parecchie volte, è veramente un bel disco. Un disco emergente di un artista che ha 19 anni di carriera, chiaramente. Cioè, però è un progetto nuovo, assolutamente. Sì, sì. Poi devo dire che in realtà per come è stato concepito, per la spontaneità con cui è stato affrontato il progetto e registrato e tutto quanto, e costruito anche. Forse è la prima volta in cui in tutti gli scrivi che ho fatto, che non è che sono stati 300, sono stati 6, è la prima volta in cui sono completamente soddisfatto di tutto, sai, alla fine della registrazione di un disco pensi, magari però ci poteva essere si poteva fare in questo modo o nell'altro. Questa volta ho detto, ho fatto di meglio non potevo fare, quindi è stato il massimo che sono riuscito a dare e sono soddisfattissimo. Puoi citare il tuo sito, dove si può acquistare l'album, sì, eccetera? Allora, il sito è tobialamare.com, www.tobialamare.com, oppure MySpace, sempre www.myspace.com/tobialamare. Ci trovate anche su Facebook in diverse forme, o Tobialamare, il mio contatto Facebook, oppure Tobialamare and Sellers, cioè sia la pagina che il gruppo. Il disco si può acquistare sia sul sito che sul MySpace con PayPal, e da credo metà ottobre parte la distribuzione nazionale, e con quella parte anche la distribuzione digitale, però online si può comprare il disco fisico. Si sta muovendo un po' tutto, insomma, si muoverà un po' tutto il discorso nei prossimi tempi, insomma, sì, a livello nazionale addirittura. Poi sai, nascere con un'etichetta indipendente piccola poi richiede un po' di tempo. Poi noi salentini, cioè, anche se ci diamo da fare, comunque abbiamo un ritardo, almeno abbiamo una lentezza cronica che da cui non riusciamo a scappare. e quindi praticamente abbiamo fatto tutto un tour in Italia e all'estero quest'inverno, e poi adesso con la distribuzione poi ripartiremo a girare in Italia, forse verremo anche dalle vostre parti. Ecco, qua in Veneto, lo farò sapere. Molto interessante questo, se vieni a fare un giretto qui dalle nostre parti sicuramente ci sarà molta gente che verrà a sentirti. Ritorneremo in Inghilterra per fine anno e credo per marzo-aprile dovremo fare un tour un po' più sostenuto in Inghilterra, e poi vediamo, insomma, che succede. Dovrebbero uscire un paio di video per ottobre-novembre. Io sarei curioso di sapere un domani come sarà andata in Inghilterra. Ma Allora, i tour che abbiamo fatto, che non sono stati grandissimi perché sono stati solamente a Londra, abbiamo fatti a gennaio e a quando è stato a giugno. E a gennaio abbiamo avuto una sfiga incredibile perché, sai, c'è stata quella settimana in cui c'era il vulcano, c'erano 50 centimetri di neve in tutta l'Inghilterra e praticamente ci sono stati cancellati tre quarti dei concerti per neve, non si poteva, quindi poi siamo riusciti a suonare ultimamente in alcuni posti e forse erano più belli di quelli dove dovevano suonare. Invece a giugno è andata in alcuni posti è andata molto bene, anche perché adesso in Inghilterra sta tornando molto questa voglia, diciamo, di West Coast, di Nashville, quindi ci stanno questi, oltre a tutti i club super indie e disco punk, ci stanno anche questi piccoli anfratti dove ci stanno questi scattati di cervello per Dylan, Neil Young e ce ne stanno un sacco, quindi una volta entrato nel giro riesci a trovarti un piccolo circuito di locali dove suonare, dove comunque ci hanno apprezzato molto. Poi per me è stata una soddisfazione perché in Inghilterra poi è molto difficile, più che negli Stati Uniti, perché gli inglesi hanno sempre, quando qualcuno canta in inglese è una puzza stonata, sempre pronti a giudicare, esatto. Sempre un po' una puzza, mamma mia, giustamente. Sì. Shakespeare era loro. Sì, vabbè. Sì. Poi vagli a dire che non voglio essere Shakespeare, però. Ho capito. Ok. Tobia, è il caso di chiudere ormai, anzi sì, il tempo stringe, io e Maurizio ti aspettiamo per un'altra occasione, magari più avanti. Sicuramente. Ti aspettiamo anche qui dalle nostre parti, dal vivo. Anche voi, se passate da queste parti. Magari. Mamma mia, mamma mia, bellissime zone. Vabbè, alla prossima, Tobia. Grazie. E seguiamo l'ultimo pezzo, che è la traccia numero 5, vi pare, vero? Summer of 82. Bellissima, con lei è Summer 69 di... Quella famosa, esatto. Però è sempre la Summer di Tobia. Grazie. Ok. Ciao, grazie, alla prossima. Grazie, Tobia. Grazie mille, ciao. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Everybody's talking about 82, and I feel so lonely in my afternoon. Sometimes I feel so tired. When I discover my attitude, and I feel alone in my afternoon. Sometimes I feel so fine. And when the sun goes down to your house, I'll be the one to share your thoughts tonight. And when you reflection to your house. I'll be the one to share your thoughts tonight. Sometimes it's hard to be someone that says goodbye, but I'm gonna change your mind. I won't change your mind. Radio Sera. Blu Radio Sera. 22:37 minuti, Maurizio. Doveva andare, dobbiamo andare. Dobbiamo andare di corsa stasera. Ho rosicchiato qualche minuto a Renato, che è qui presente. Stasera siamo stati insieme, telefonicamente parlando, con Drupi e Tobia Lamare, che abbiamo, and the Sellers, che abbiamo appena sentito. L'appuntamento è per domani. Con me abbiamo Marco Carena. Marco Carena qui in diretta dalle 22 alle 24. 22 dal vivo per Rock Wave. E poi la prossima settimana avremo altri due appuntamenti che non ricordo il foglietto. Però il foglio non lo vedo stesso. Più. È Claudio Lolli, mi pare che ci sia. Non mi pareva mica, però no. Se c'è Claudio Lolli tanto meglio. Tanto meglio. E dobbiamo ringraziare Alberto Prisco, che è il nostro curatore. E ricordiamo anche che le nostre interviste le trovate anche in podcast, diciamo. Entrate certo. Nel nostro sito della radio, bluradioveneto.it, ci sono i vari collegamenti. Ok. Alla prossima! Rockwave, l'onda del rock.